È stato un passaggio, non particolarmente carico di novità, almeno fino a questo punto. Non esiste alternativa a un momento politica a questo governo, mi pare che tutti ne abbiano preso sostanzialmente atto, che esca rafforzato strutturalmente fino ad arrivare alla fine della legislatura, io avrei molti, molti dubbi. Quindi non vorrei che tra qualche giorno si ricomincia da capo con le tensioni e le lite interne alla maggioranza di governo, tenuto anche conto che è stato proprio oggi annunciata la costituzione del partito dei Finiani. Quindi credo che questo non aggiunge stabilità al quadro politico.